Sono le 7:19 minuti e 47 secondi, care ascoltatrici e cari ascoltatori. A differenza del solito, oggi non abbiamo aperto con i vostri WhatsApp audio, abbiamo qualche piccolo problema tecnico che è in fase di risoluzione. In fase di risoluzione, voi continuate a mandarci le vostre idee, le vostre opinioni al 349-238-6666, le vostre voci se volete. Al microfono sempre Simone Spezia, è lunedì 9 novembre ed è, come ben sapete, la parte del 24 mattino dedicata alla rassegna stampa. Più avanti, nel corso della trasmissione, torneremo ad occuparci di Calabria e Covid. Lo faremo con il presidente della commissione antimafia, Nicola Morra, che sarà il nostro ospite alle 7:45. Ci occuperemo di Stati Uniti. Sarà con noi Romano Prodi alle 8:35 e poi parleremo con la vicepresidente degli industriali piovesana per capire un po' da una parte come leggono questa elezione, questo cambiamento al vertice degli Stati Uniti, e dall'altra parte come leggono i provvedimenti del governo in favore delle imprese. Iniziamo come sempre da un'occhiata alle prime pagine che oscillano tra le questioni del virus e l'elezione di Biden. Repubblica li mette insieme, la sfida di Biden, lotta al virus, mentre ci fa sapere il quotidiano che sta per arrivare il cambio di zona per 6 regioni. Le regioni che rischiano la chiusura è il titolo del quotidiano nazionale, che a centro pagina fa la scelta, invece di parlare di Biden, parlare di Melania, giallo Melania, perché si parla di un'ipotesi di separazione. I medici, meglio chiudere tutto, è il titolo del Messaggero. Regioni, il pasticcio dei dati, in ritardo i numeri per il monitoraggio, titola così il Corriere della Sera. Però il titolo di taglio alto, questo è il titolo forte, il titolo di taglio alto è dedicato proprio a Biden, che chiama subito gli scienziati anti-Covid. America, curiamo insieme le nostre ferite, il titolo della Stampa. 4 regioni verso l'arancione, nuove regole taglia ricoveri, è il titolo del Fatto Quotidiano. Trump, Covid, governo, il giudizio di Berlusconi. Italia è impreparata alla seconda ondata, serve unità. Quanti eccessi sul Covid, è il titolo di Libero, che apre con un'intervista al professor Bassetti, anche lui autore di un libro, come il viceministro Sileri. Peggio che incapaci, pericolosi, titola La Verità. Il Sole 24 Ore, il fondo perduto rincorre il virus, in campo 13 aiuti anti-chiusure. E poi la Gazzetta dello Sport, che titola sì sul Milan, è il titolo forte, incredibile, ma ci arriveremo tra un attimo. Il titolo sopra, in apertura, è dedicato al tema del virus e delle polemiche, ecco tutte le accuse. Il tema al centro della scena c'è la Lazio, ma c'è anche il litigio tra la... o meglio, la tensione che c'è tra le ASL e le squadre per l'invio dei giocatori in nazionale. Ci arriveremo, perché è un tema che sta crescendo. Da cosa iniziare oggi? Allora, io inizierei dalle questioni che hanno a che fare col Covid. Poi, vi ripeto, dopo andremo alla questione calabrese, che, come ben sappiamo, ha dell'incredibile. Ma qua molte regioni hanno parecchio da rimproverarsi, e lo sappiamo, e spesso lo abbiamo raccontato. Tutto questo, guarda, lo diciamo sempre, senza assolvere nessuno. Cioè, non è che le colpe di alcune regioni assolvono il governo o le eventuali colpe di alcune regioni assolvono il governo e le eventuali colpe del governo assolvono le regioni. Qua su molte cose, sulla gestione di questa seconda ondata, su quello che si è dichiarato, che si è detto e si è fatto, l'impressione generale è che ci sia stato complessivamente un mancato coordinamento e presumibilmente delle responsabilità che vanno distribuite tra il livello locale e il livello nazionale. A dimostrazione di tutto questo ci sono alcune regioni nelle quali le cose oggettivamente girano. E adesso andiamo sulle regioni perché il quotidiano La Repubblica ci informa di cosa? Che come ben sapete, tutto è saltato nel momento nel quale è saltato il contact tracing, ossia il tracciamento dei contatti dei positivi, e quindi l'impossibilità di reperire quali fossero le persone che erano entrate in contatto con delle persone positive al Covid. Cosa succede? Succede che il bando è arrivato, però è al palo, ci dicono Giuliano Foschini e Fabio Tonacci a pagina 19. Non riusciamo ad assumere tracciatori. I soldi ci sono, i posti anche, il fabbisogno è enorme, manca solo la firma sul contratto. Quella firma non arriva. E il risultato è che oggi, nel pieno della seconda ondata, ci sono 49.000 italiani che si sono messi a disposizione dei dipartimenti di prevenzione sanitaria per aiutare nelle indagini epidemiologiche, eppure le regioni non li stanno chiamando. È così. Gli elenchi dei nomi sono chiusi nei cassetti degli assessorati, soffocati dalla burocrazia che non lesina lentezza neanche in queste settimane di emergenza massima. Come funzionano le cose o come non funzionano? Allora, si parte il 24 ottobre. Quel giorno la Protezione Civile, su richiesta del Ministro delle Autonomie Francesco Boccia e quello della Salute Roberto Speranza, pubblica un bando per il reperimento urgente di forze da impiegare nel tracciamento. 1.500 tra medici, tecnici e infermieri e 500 amministrativi. È un bando sulla falsariga di quello di marzo. Le richieste arrivano, le candidature sono 49.000. Tutti disoccupati, liberi professionisti o inoccupati, 9.200 medici, 2.700 infermieri, 1.900 assistenti, 8.200 studenti, 26.500 amministrativi. Il 26 ottobre la Protezione Civile chiude il bando, il 27, un martedì, invia gli elenchi a tutte le regioni. Da quel momento il nulla o quasi, il nulla o quasi. Tra l'altro, sia Arcuri che Boccia hanno detto alle regioni: guardate, questo abbiamo messo 2.000 persone, però è un limite che prendete come indicativo. Assumete quelli di cui avete bisogno, e sappiamo che le regioni ne hanno bisogno. Morale, la Toscana assume 242 persone, quindi più della metà di quelli che sono stati assunti. 51 ne vengono assunti in Veneto, 42 nelle Marche, 27 in Umbria, 25 in Liguria. La Puglia chiude le scuole per mancanza di tracciatori e non usa le disponibilità della Protezione Civile. Nell'elenco ci sarebbero 737 medici, 158 infermieri, 266 tecnici della prevenzione da cui pescare, ma la Puglia non ne assume. A zero la Campania e la Calabria, del resto la Calabria lo sappiamo, non ha il piano pandemico, quindi, che avrebbero la disponibilità di 5.000 persone referenziate. A zero il Piemonte, dove però fanno sapere che nei prossimi giorni sigleranno i primi contratti. Ma perché nessuno li ha chiamati prima? Si chiedono i giornalisti di Repubblica. Le giustificazioni opposte da alcuni uffici regionali lasciano senza parole. Burocrazia, incapacità di comunicare con il sistema sanitario centrale, incapacità di comunicare con il sistema sanitario centrale, non lo so. Indisponibilità di personale che faccia le selezioni. Risultato: ieri sera alcuni direttori generali delle ASL non sapevano nemmeno dell'esistenza di questo elenco. Fermiamoci, va. Ed eccoci di nuovo, qualche ascoltatore in merito al pezzo che ancora abbiamo dato conto prima, quello sul quotidiano Repubblica, ci parlava del contact tracing, ossia il tracciamento dei contatti, dei soldi messi a disposizione dal governo, delle regioni che non hanno assunto queste persone nonostante fossero nella loro disponibilità, fa notare, guardate, che un bando a fine di ottobre ormai è inutile per fare tracciamento dei contatti. Non è propriamente fine di ottobre, il bando è le liste sono state consegnate alle regioni il 26 di ottobre. Dico che innanzitutto no, non è inutile, perché il contact tracing, il tracciamento dei contatti, continua a servire. Ma in secondo luogo dico questo: le regioni hanno dichiarato di essersi trovate in crisi esattamente per l'incapacità di tracciare i contatti. Il bando del governo ha messo a nudo il fatto che c'erano nel nostro paese, ci sono nel nostro paese 50.000 persone, le cui capacità vanno vagliate naturalmente, pronte a fare questo lavoro, e nessuno ha pensato ad utilizzarle, nessuno ha pensato a fare un bando regionale per assumere persone per fare il contact tracing, o almeno pochi lo hanno fatto, pochissime regioni lo hanno fatto. E qua qualche colpa, no, va attribuita, qualche responsabilità, mettiamola così, quantomeno va attribuita. Dunque, restiamo in parte su questi temi, però fatemi andare sull'aspetto economico, perché così peschiamo due pagine. La prima è quella del Messaggero a pagina 7. Guardate, ogni giorno troverete, quasi ogni giorno, una pagina di giornale, e ogni volta di un giornale diverso, che vi racconta questo. Ci sono ancora 200.000 persone che aspettano la cassa integrazione. Io non riesco ancora a capire come sia possibile. Allora, sono 207.000, ci racconta il Messaggero con Francesco Bisozzi, i pagamenti per la cassa integrazione Covid che l'INPS deve ancora corrispondere. Oltre il 70% relativi a richieste pervenute ad ottobre. E però ce ne sono evidentemente un 30% che sono relativi a mesi precedenti, addirittura presumibilmente settembre, o se non agosto, prima ancora. I ritardi colpiscono poco meno di 50.000 lavoratori che finora hanno ricevuto solo una parte dei versamenti ai quali avevano diritto. Gran parte di questi deve ancora ottenere l'integrazione di luglio e dei mesi successivi. Di luglio addirittura. Poi ci sono più di 10.000 persone che non hanno incassato nemmeno un euro dall'inizio dell'emergenza. È quanto emerge dagli ultimi dati diramati dall'INPS. Va detto che i numeri sono più contenuti rispetto ad un mese fa, ma rimangono comunque importanti. Lo tsunami di domande innescato dall'emergenza Covid-19 ha travolto l'Istituto di Previdenza fin da subito, al punto che a giugno il presidente Pasquale Tridico era stato costretto ad ammettere che vi erano delle difficoltà. Però mi permetto di dire, per carità, poi capisco che ci siano delle difficoltà a sistemare le piattaforme informatiche, a organizzare il lavoro della pubblica amministrazione, soprattutto da remoto, però siamo quasi a metà novembre, siamo all'inizio di novembre, siamo nella prima decina di novembre, la pandemia e la cassa integrazione sono iniziate a marzo, forse a questo punto si potrebbe provvedere per persone come Elena T, nome di fantasia, intervistata dal Messaggero. Ho tirato la cinghia 7 mesi, un incubo e non è finita. Prima della pandemia lavorava in un'azienda attiva nel settore turistico, con sede a Roma, che ancora oggi non vede la luce in fondo al tunnel. Mi hanno mandata a casa subito, era marzo, ma i soldi della cassa integrazione ho iniziato a riceverli solo a settembre, il 15 di settembre. Per l'esattezza ho visto arrivare il primo bonifico dell'INPS, perché poi ci sono casi anche come questo, nel quale ovviamente si accumulano ritardi, si accumula denaro non ricevuto, e poi quando arrivano i bonifici sono i bonifici mese per mese, e però tu ti ritrovi con i 3 mesi precedenti nei quali non hai ricevuto un euro, e quindi anche se si riduce il numero di domande, il numero di persone che non hanno ricevuto, c'è questo problema ovviamente da risolvere. Sul fronte economico vi segnalo la paginata enorme del Sole 24 Ore, che è pagina 3, che ci porta in questo labirinto degli aiuti a fondo perduto. 13 varianti sono, con alcuni aiuti ancora in stand-by. La curano Cristiano Dell'Oste e Dario Acquaro. La nuova tornata di indennizzi pensati dal governo per le attività colpite dalle più recenti chiusure è solo l'ultimo tassello di un mosaico composto sull'onda dell'emergenza. 12 tipologie di aiuti sparpagliati in 3 diversi decreti, che salgono a 13 con le misure del decreto Ristori Bis, con regole ad hoc e spesso ancora in attesa di attuazione. Da oggi le entrate cominciano a far affluire i primi contributi alle attività interessate dalle chiusure del 24 ottobre, pagamento che però arriverà in automatico solo a chi ha ricevuto il primo contributo a fondo perduto. E dentro cosa ci sono? Il decreto ristori VBIS del 6 novembre, ristori automatici del decreto del 24 ottobre, 2 miliardi e mezzo, i ristori a richiesta sempre previsti dal decreto del 24 ottobre, la revisione delle richieste errate o rigettate di contributo a fondo perduto, scaduto del, dei decreti precedenti, gli aiuti per i comuni montani, lo sport dilettantistico, gli spettacoli dal vivo, il settore turistico, le imprese culturali, le fiere internazionali. 13 aiuti a fondo perduto e oggi abbiamo una scadenza importante per quelli, per gli ultimi in arrivo. Cosa ancora? Allora, vi segnalo che un po' su tutti i quotidiani trovate qualche elemento sul fatto che il contagio sta tornando nelle RSA, su Repubblica. Enrico Ferro ci racconta per esempio il caso di Borgo Bassano di Cittadella, provincia di Padova, dove sono morti 9 anziani in 10 giorni e sono contagiati 58 ospiti su 62. E anche qua non siamo riusciti a fare abbastanza attenzione nemmeno su questo fronte. Vi segnalo che a pagina 7 del Quotidiano Nazionale si va sul tema dell'istruzione online, della didattica a distanza. Computer vecchi e connessioni lente, la scuola a distanza è una corsa ad ostacoli, e qua c'è il racconto perché da oggi si potranno richiedere i voucher per la banda ultralarga, fino a 500 euro per abbonamenti e dispositivi per le famiglie con un ISEE inferiore a 20.000 euro. Però è presumibile che bastino solo in parte. E poi c'è un grande tema che viene ben sottolineato da Achille Perego a pagina 7 del Quotidiano Nazionale, che è quello appunto di come si fa questa didattica a distanza, che non sia semplicemente didattica in presenza trasferita in digitale, ossia la stessa lezione uguale uguale e trasferita in digitale. Vi segnalo anche che molti quotidiani, prendo La Verità con Laura Della Pasqua, pagina 10, si soffermano sul tema della prevenzione sanitaria che se ne va, perché la questione è chi pensa agli altri malati, chi ci pensa. Cancellati i vaccini obbligatori, ci racconta Laura Della Pasqua, per un bambino su 3, crollati gli esami di screening oncologici, oltre il Covid si apre l'abisso dei pazienti che iniziano a trascurare le cure necessarie, anche in certi casi non solo perché visite annullate e via dicendo, ma anche perché hanno paura di trovarsi di fronte ad un ospedale complicato da frequentare. Vi segnalo anche che l'intervista di Pietro Senaldi, che ne firma una come sapete ogni lunedì sul Libero, è col professor Bassetti, una lezione da non dimenticare, è il titolo del suo nuovo libro. Vi leggo il titolo: ospedali pieni, colpa di chi semina il panico, intervista destinata a far discutere. E poi ragazzi c'è tutta la questione della Serie A e qua si apre un capitolo enorme, perché è un capitolo che a vederla com'è e a vedere le ipotesi che stanno circolando potrebbe, non dico far sì che alcune partite siano considerate letteralmente falsate, ma quasi. Perché? Perché il tema è questo della Lazio e del fatto che la Lazio nei suoi protocolli anti-Covid ha deciso di utilizzare un laboratorio che è della provincia di Avellino, sul quale si sono appuntati molti dubbi e molte perplessità, tanto che racconta bene la Gazzetta dello Sport, la quale dedica 2 pagine a tutto questo, sono pagine 18 e 19 con Elisabetta Esposito, e tanto che su questo tema è stata aperta un'inchiesta. Nel mirino c'è questa struttura campana l'indagine della procura di Avellino, l'indagato è Massimiliano Taccone, il presidente del consiglio d'amministrazione del laboratorio, dunque responsabile di qualsiasi cosa avvenga lì dentro. Le ipotesi di reato sono falso, epidemia colposa e frode in pubbliche forniture. Si vuole capire se ci siano stati elementi di criticità o addirittura adulterazione dei referti, in pratica se siano stati in qualche modo ritoccati, anche perché nel caso nel quale il positivo non dichiarato si sentisse libero di circolare si configurerebbe appunto il reato di epidemia colposa, che punisce chi con dolo o con colpa favorisce la diffusione di un virus letale per la popolazione. E dunque si indaga sulla Lazio, mentre oggi sarà in procura questo personaggio curioso che è il medico della Lazio, il professore, il dottor Ivo Pulcini, 74 anni, medico e cardiologo, al quale la Gazzetta dello Sport dedica un ritratto nel quale scrive: al Covid ha sempre dato un peso relativo, tanto che ad aprile si era preso una denuncia dal Codacons per aver detto che per far ripartire il campionato sarebbe stata sufficiente la semplice effettuazione del test immunologico a immunofluorescenza. Nello stesso periodo sosteneva anche che è vero che il virus è stato manipolato, ma è vero pure che in questo periodo è mutato 33 volte, diminuendo l'aggressività, e quindi ci mette meno paura. Secondo me il coronavirus sta morendo. Che considerare malati tutti positivi è un'esagerazione. Essere positivo vuol dire essere malato e contagioso. Se non hai sintomi e magari sei anche un atleta, ti faccio il controllo e ti mando a giocare, diceva il dottor Ivo Pulcini. Il traffico. Mattino. Eh sì, sì, lo dico all'ascoltatrice, anzi, sì, è un'ascoltatrice che dice: vogliamo vedere oltre ai disastri quello che a fatica, in modo accettabile, stiamo facendo funzionare. Dirigenti scolastici, insegnanti bravi, impiegati che le pratiche le mandano avanti non working. Un paese che almeno in parte ha retto. Io, guardi Giulia, sono perfettamente d'accordo. Sono perfettamente d'accordo. Invece non concordo con l'ascoltatore Giancarlo, che mi dice: senta Fenomeno, come dovrei farla la DAD che non sia la ripetizione di una lezione in presenza ma a distanza? Mi metto il naso da clown e racconto barzellette? No, caro Giancarlo, se si fa un po' di ricerche su internet, visto che ha la possibilità, immagino che internet ce l'abbia, se è un insegnante fa la DAD, internet ce l'ha, si cerca un po' di esempi belli di didattica a distanza che ne esistono e si possono fare, si possono fare dei video, si possono fare delle mappe storiche con Google Maps, si possono fare verifiche che si autocorreggono, si possono fare presentazioni, si possono fare mille cose che non siano una classica lezione frontale di quelle che si facevano 50 anni fa. Posto che anche in classe probabilmente bisognerebbe fare lezioni un po' diverse. Buongiorno Nicola Morra, presidente della Commissione Antimafia, e benvenuto, eccoci. Buongiorno a lei e buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori. Ma che roba incredibile questa della Calabria, Morra. Cioè, questo il commissario ex generale dei Carabinieri Cotticelli, che nemmeno ha presentato un piano pandemico. A lei che è calabrese chiedo: che cosa succede? Veramente, anche per quello che è stato ribadito ieri sera, perché il generale ha ritenuto opportuno presentarsi in un'altra trasmissione televisiva, è stato ricordato che il piano era stato realizzato dallo stesso generale, che però evidentemente la sera in cui è stato intervistato dal giornalista di Titolo Quinto non aveva piena consapevolezza. Tant'è che ha anche ipotizzato di non essere stato sufficientemente lucido, come se fosse affetto da malore. Però al di là del grottesco, il punto è un altro: la situazione calabrese è molto più grottesca e tragica di quanto non si possa ipotizzare stando a Roma. Bisogna starci, bisogna capire che ci sono meccanismi infernali che purtroppo si ha difficoltà a rimuovere. Non ne nascondo che, per esempio, ieri è stato, seppur diciamo così, sfiorato il problema dell'azienda sanitaria territoriale di Reggio Calabria, per cui addirittura in alcuni casi si sono ipotizzati suicidi / omicidi di commissari inviati a mettere a posto i conti, in riferimento a Fortunato Campolo. Però quell'azienda sanitaria provinciale ha debiti per circa 1 miliardo di euro. Per anni non si sono presentati i bilanci, sì. E le aggiungo, da un punto di vista penale, per il momento, che io sappia, nessuno ha pagato. E allora, sì. Siccome sono amministrazioni pubbliche e ci sono leggi dello Stato che normano, la domanda è: perché la legge in Calabria ha difficoltà ad essere applicata? Perché poi si congiunge un altro problema. Sì. Io stesso ho prodotto diversi esposti per la sanità calabrese, solo che presso la procura presso cui sono stati presentati giacciono. Io sono stato anche sentito come persona informata sui fatti, però le cose non vanno avanti. E lei saprà meglio di me che la procura di Salerno sta lavorando su diversi magistrati calabresi ex articolo 35 che a giudizio di chi ha avanzato queste denunce potrebbero non essere all'altezza del compito, per cui è una commistione assai complessa di cose, sì, anche perché non mi faccio finire un attimo, perché c'è tanta politica regionale che ha interessi nella sanità privata e allora il ragionamento è molto molto semplice: affossiamo la qualità della sanità pubblica, indirettamente favoriamo la sanità privata. Ascolti, come giudica la scelta del nuovo commissario Zuccatelli, che si è reso protagonista, per lei parlava di grottesco poco fa, Morra, di qualcosa? Guardi, immediatamente sono circolati in rete dei video, ma anche delle precedenti interviste in cui, diciamo così, il commissario Zuccatelli non è che abbia dato il meglio di sé, e mi lasci usare eufemismi. Io credo che però la valutazione debba essere fatta complessivamente sull'organigramma che verrà chiamato a governare il piano di rientro e soprattutto la riqualificazione della dignità della sanità calabrese, perché purtuttavia ci sono operatori onestissimi che però vengono sempre messi ai margini, soprattutto c'è un mondo di diritti delle persone che vanno rispettate. Ora, io sto lavorando per una soluzione con altri colleghi, insomma, che sia con il governo, che sia felice, perché c'è necessità di fare un salto di qualità e per fare un salto di qualità bisogna mandare dei segnali chiari, forti, inequivocabili. Lo stesso Zuccatelli proviene dalla precedente struttura commissariale, quindi non ci sarebbe quella discontinuità che forse molti attendevano, però i bilanci bisogna farli alla fine. Io spero che si possa arrivare già nella giornata odierna ad una soluzione del problema. Le dico, siamo on the road, come dicono gli anglosassoni, quindi vedremo. Speriamo che si possa dare una notizia che tanti calabresi auspicano. Morra, molto brevemente, per tornare alla sua prima valutazione iniziale, quindi lei sta accusando i magistrati calabresi di inazione o di volontaria inazione sul tema della sanità? No, io sto dicendo che l'amministrazione della giustizia in Calabria è cosa molto complessa. Noi come commissione, ma questo glielo posso dire, siamo stati recentemente in un ufficio giudiziario calabrese in cui ci è stato spiegato, carte alla mano, che per i numeri degli organici del tribunale e di fatto molte inchieste che producono anche ordinanze di custodia cautelare, che quindi vengono confermate da parte del tribunale in funzione delle ipotesi d'accusa avanzate dalla procura, molte inchieste sono destinate a non concludersi in alcun processo, tale è l'arretrato che deve essere smaltito, per cui cioè, a questo punto la situazione diventa tragicomica. E poi ci sono anche questi 15 forse, se non di più, magistrati che vengono ad essere oggetto di interesse da parte della procura di Salerno, ma lei ricorderà che qualche mese fa è stato arrestato un giudice della Corte d'Appello di Catanzaro, il dottor Petrini, con un'accusa infamante, nonché gravissima, di corruzione in atti giudiziari. Normalmente quando si viene corrotti c'è anche qualcuno che è corrotto, per cui bisognerà anche domandare a tanta parte dell'avvocatura, perché sono stati insomma segnalati due casi di avvocati, se non sia il caso di riflettere su come si debbano difendere i propri assistiti. Ringrazio, grazie Nicola. La situazione è molto molto complessa, mi lasci dire. Sì, sicuramente. Grazie Nicola Morra, presidente della Commissione Antimafia, per essere stato con noi. Buona giornata, buon lavoro. GR24, ci risentiamo dopo con il nostro Paolo Mieli e poi Romano Prodi, poi la vicepresidente di Confindustria. A dopo.